perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. At napakalakas na ng hangin, pero hindi pa po tumatama ang sentro ng bagyo dito sa bahagi ng Tacloban. Ito po ay yung papalapit pa lamang na bagyo at batay dito sa direksyon ng ating hangin. Sono oltre 10.000 le vittime nelle Filippine per il tifone Haiyan, 4 milioni secondo l'UNICEF, i bambini colpiti, 4 morti e decine di dispersi nel sud della Cina. La rabbia dei commercianti, le imprese sono stremate, il 2014 non sarà l'anno della ripresa, 3.000 emendamenti alla legge di stabilità non sono un problema, dice Saccomanno. PDL alla resa dei conti, Berlusconi paragona i governativi a Fini, Letta il desiderio di autodistruzione non giova a nessuno, nemmeno al partito del Cavaliere. Sigarette elettroniche, il via libera alle nuove norme che consentono di usarle negli autobus, nei cinema e in tutti i luoghi pubblici, protestano le associazioni. Calcio, il campionato si fa sempre più avvincente, la Juventus ad un punto dalla Roma, ma i riflettori si puntano su Salernitana, Nocerina, solo 20 minuti di partita per le minacce degli ultra, notizia di un attimo fa, sono una trentina quelli identificati tra i partecipanti al raid nel ritiro della squadra. Come avete sentito, abbiamo deciso di mettere in apertura l'audio sul tifone nelle Filippine. Ne parleremo a lungo in questa edizione di Effetto Giorno. Sentiremo tra poco una testimonianza di un missionario del Pime a Zamboanga. Sentiremo il riassunto di quello che è successo e che sta succedendo. E più avanti sentiremo anche l'ambasciatore italiano a Manila. Ma apriamo parlando di economia e parlando dei dati forniti oggi da Confcommercio e soprattutto delle frasi del presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli. Le imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dice, sono stremate da nord a sud e purtroppo il 2014 non sarà certo l'anno della ripresa sostanziale e non lo sarà anche per la legge di stabilità che, se non verrà corretta, lascerà irrisolti i problemi strutturali della nostra economia. Così Sangalli. Quasi a stretto giro arriva la risposta del ministro dell'economia, Fabrizio Saccomanni, in realtà in un discorso di fronte alla Guardia di Finanza. Ci colleghiamo dunque con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Di legge di stabilità, Simone, ha parlato poco fa il ministro dell'economia Saccomanni, alle Camere spetta il compito di migliorarla, ha detto all'inaugurazione dell'anno di studi della scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza, e comunque l'alto numero di emendamenti non spaventa. Saccomanni, che a differenza di Confcommercio si è mostrato ottimista sulle possibilità di ripresa della nostra economia nel 2014, a condizione, ha detto, che ci sia stabilità politica. Allora sentiamo la sua voce. Nel 2014 la dinamica del prodotto è stimata pari all'1,1% e a partire dal 2015 la crescita del PIL si porterebbe su livelli vicini al 2%. Nell'elaborare tali previsioni abbiamo tenuto conto in maniera prudente degli effetti delle riforme introdotte sino ad ora. Queste presuppongono la prosecuzione di un'azione di politica economica volta da una parte ad accrescere la competitività del sistema, dall'altra a rafforzare la solidità delle finanze pubbliche. Intanto settimana piuttosto movimentata per la legge di stabilità, domani la Commissione Bilancio del Senato esamina gli oltre 3.000 emendamenti presentati da tutti i partiti, da oggi come dicevi anche tu entra nel vivo la mobilitazione unitaria promossa da CGIL, CISL e UIL, fino a venerdì tutte le province italiane avranno 4 ore di sciopero e ci saranno varie manifestazioni, le tre sigle chiedono infatti una revisione radicale della legge dei carichi fiscali che pesano su lavoratori e pensionati. Il testo della legge di stabilità dovrebbe arrivare in aula lunedì prossimo, i lavori in commissione però potrebbero prolungarsi e quindi è possibile anche uno slittamento. A te Simone. Grazie Alessandra Schepisi, e tra poco torneremo sulla legge di stabilità e soprattutto sulle questioni fiscali per un nostro approfondimento. Intanto vedo un'altra notizia economica arrivata questa mattina e riguarda la produzione industriale, che a settembre torna positiva, il rialzo dello 0,2% su agosto, mentre su base annua risulta in diminuzione per la 25esima volta consecutiva, in discesa del 3%, anche se il ritmo di caduta rallenta. Il dato naturalmente è corretto per effetti di calendario. Veniamo però intanto alle cronache, appunto, dal devastante tifone che ha colpito le Filippine. Gli aggiornamenti. Spostandosi verso ovest, il tifone Haiyan ha perso parte della sua forza, non abbastanza però per non lasciare dietro di sé altre vittime. meno di 10 nel sud della Cina, dove si cercano molti dispersi. Alle prime luci dell'alba ha toccato le coste settentrionali del Vietnam, portando piogge tropicali e venti a 120 km orari. Ma la devastazione alla quale si erano in parte preparati i vietnamiti, allontanando dalle case oltre 650.000 persone, non c'è stata. La devastazione, invece, ha cambiato il volto delle Filippine. Il tifone ha travolto le isole centrali e le città a sud di Manila. Case rase al suolo, alberi divelti. Viste dall'alto, le coste filippine hanno contorni diversi rispetto a qualche giorno fa. I detriti hanno invaso ogni spazio. Nel mezzo, i sopravvissuti, costretti a cercare tra le macerie. No one can help us. Molte zone sono ancora isolate, mancano acqua e cibo. Il rischio di epidemie è forte. Il rischio di atti vandalici e sciacallaggio, invece, è già realtà. Il governo ha mobilitato l'esercito, ma arrivare nelle aree colpite non è facile. Gli aeroporti sono stati solo parzialmente riaperti. Difficile anche l'arrivo degli aiuti umanitari, già partiti da molti paesi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo adesso ad un racconto da quelle zone. Katia Caramelli ha raggiunto padre Sebastiano D'Ambra, missionario del PIME, a Zamboanga, nel paese da oltre 30 anni. Sentiamo. Il centro di questo tifone è nella zona che si chiama Leyte, è al centro delle Filippine, è una città che è stata presa di soprattutto dove sono state migliaia di morti e Tacloban. Si dice che ci sono 10.000 morti in questa sciagura, penso che saranno di più come al solito. C'è ancora tanta confusione perché in alcune zone non si riesce ad arrivare e noi nelle Filippine PIME siamo pochini. Ci sono due padri nella zona che è stata colpita, io purtroppo non sono riuscito a sentirle. Anche gli aiuti locali, solo da ieri è stato possibile entrare in alcune zone, molte zone sono tagliate fuori dalle comunicazioni, dalle strade distrutte, in alcune zone si può arrivare solo con gli elicotteri, ognuno vive la tragedia nella zona in cui si trova. Noi abbiamo qui degli amici che stanno andando sul posto perché alcuni dei parenti non rispondono, quindi c'è paura che sono stati coinvolti. Infatti l'unità di crisi della Farnesina sta effettuando proprio le verifiche in seguito ad alcune segnalazioni da parte di italiani che non riescono a contattare parenti nelle Filippine. Questo è quello che ha riferito il Ministero degli Esteri. Torneremo a parlarne più avanti, proprio appunto come si diceva, con l'ambasciatore a Manila. Adesso però noi vogliamo tornare alle questioni fiscali, perché già vi abbiamo riferito in parte di quel che sta succedendo intorno alla legge di stabilità, anche se non c'è molto di chiaro perché ci sono questi 3.000 emendamenti. Saccomanni apre alle modifiche, vedremo quanti di questi 3.000 emendamenti permarranno. Alla fine è quello che succede sempre quando c'è una legge finanziaria prima e quella che è diventata la legge di stabilità poi, e vedremo che cosa cambierà. Nel frattempo Salvatore Padura del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto nei nostri studi. Grazie. Di nuovo. Nel frattempo, come dire, questo 2013 è, firmi un editoriale a proposito oggi sul Sole 24 Ore, è un annus horribilis per l'incertezza fiscale soprattutto. Sì, direi che è un anno nel quale si rischia veramente di, senz'altro di fare peggio dello scorso anno, che già lo ricordo, no? L'anno del debutto dell'IMU, di tutte quelle nuove tasse balzelle che erano l'eredità, diciamo, della manovra Salva Italia. Insomma, un anno veramente particolare che concentrerà in questi ultimi 50 giorni dell'anno tutta una serie di incognite e di sorprese vere e proprie. perché siamo in una situazione in cui non solo, insomma, non sappiamo ancora bene che cosa dovremo pagare da qui a fine anno. Ricordo che certo il Presidente del Consiglio ormai ha più volte detto che non pagheremo che i proprietari di prima abitazione non pagheranno la seconda rata dell'IMU, però al momento, insomma, ancora non ne abbiamo contezza. Quindi a partire dall'IMU e poi avanti, insomma, la tassa rifiuti, gli acconti d'imposta, eccetera, mi sembra sia un anno veramente, diciamo, sotto questo profilo molto molto particolare e pesante. Praticamente impossibile programmare. Ti chiamo in causa anche su un'altra cosa. Oggi nasce un nuovo appuntamento del Sole 24 Ore. Sì, oggi nasce un nuovo appuntamento, anzi ritorna, diciamo, un appuntamento che fa parte un po' del patrimonio della storia dell'edizione del lunedì del Sole 24 Ore, e quindi da oggi abbiamo queste nuove pagine dedicate a risparmio e famiglia. Risparmio e famiglia è proprio il nome della testata, quindi diciamo un modo di leggere i fatti dell'economia, del risparmio, ma anche quelli, diciamo, in senso più generale dei consumi, dell'economia della casa, dell'economia della famiglia, attraverso il quale appunto cercheremo di sostenere e di affiancare i nostri lettori nelle scelte di ogni giorno, sia sul fronte, diciamo, investimenti veri e propri, magari andando a scegliere quelli più semplici e meno rischiosi, no, in funzione della famiglia, sia pensando che spesso programmare forme di risparmio, che ne so, per il futuro dei figli può essere un grosso vantaggio, e sono cose alle quali, insomma, bisogna imparare a pensare. Grazie a Salvatore Padura del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Io vi riferisco a questo punto un po' di notizie di cronaca italiana che riguardano soprattutto il forte vento che sta investendo il paese in queste ore. Iniziamo da Genova, parchi chiusi per motivi di sicurezza, è stato chiuso anche il terminal VTE del porto di Voltri, sono stati sospesi i collegamenti marittimi con Porto Torres, questa mattina cancellati o dirottati diversi voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto del capoluogo ligure. Ci sono problemi anche in altre zone d'Italia, ci sono chiusure di ferrovie e strade in Piemonte e anche sull'Adriatico, anche se si sta tornando alla normalità. Naturalmente gli aggiornamenti li avrete anche dai colleghi di Strade in diretta tra poco. Noi veniamo alla politica, con la situazione nel PDL che sta attraversando forse il suo momento di maggiore tensione in vista del Consiglio nazionale. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Popolo della Libertà, come mai prima d'ora, ad un passo da una spaccatura che a meno di clamorose retromarce sembra essere dietro l'angolo, tutto questo a pochi giorni dal Consiglio nazionale che dovrebbe sancire il passaggio dal PDL a Forza Italia. A scatenare l'ultimo braccio di ferro tra falchi e colombe, le parole ieri di Angelino Alfano, il ragionamento del vice premier è stato il seguente: Berlusconi decadrà da senatore o per un voto dell'aula di Palazzo Madama o per via giudiziaria. Ecco perché secondo Alfano Berlusconi dovrebbe comunque sostenere il governo Letta. Parole queste di Alfano che al Cavaliere sanno di strappo: siate le ali o farete la fine di Gianfranco Fini, ha replicato Berlusconi, che poi, rivolto ai cosiddetti governativi, ha aggiunto: come potete pensare di appoggiare un esecutivo che commette un omicidio politico contro di me? A commentare la situazione del PDL questa mattina è anche il Presidente del Consiglio Letta, che dice: continua a non vedere quali alternative serie per il Paese ci siano intorno al cupio di soldi, non porta a niente, non serve a nessuno e non cambia niente neanche al PDL. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, veniamo a sentire il commento di oggi di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Dice Berlusconi che Alfano e gli altri dissidenti filogovernativi seguiranno la malinconica parabola politica di Gianfranco Fini. Può darsi, ma oggi non è questo il punto della questione. Il nocciolo è che si sta creando un gruppo parlamentare ormai disposto, almeno a parole, a distinguersi dalla volontà e dall'egemonia di Berlusconi, sostenendo il governo anche quando il vecchio leader decidesse di uscire dalla maggioranza. Sarebbe una rivoluzione del quadro politico. Questa operazione fallirà? Oggi non può saperlo nessuno, nemmeno Berlusconi. Dipenderà da molte cose, in primo luogo dalla capacità di Enrico Letta di reggere la scena e di intercettare l'anno venturo la ripresa economica europea. Ma Berlusconi dovrebbe sapere che la storia non si ripete mai identica, nonostante certi luoghi comuni. La sconfitta di Fini era avvenuta in altre circostanze. Il tempo passa e gli uomini invecchiano, anche quelli che hanno dominato la scena per un ventennio. E noi veniamo a parlare adesso di sigarette elettroniche, perché è stato cancellato il divieto di utilizzare nei luoghi pubblici, fatte salve le scuole, con un emendamento a firma tra l'altro di Giancarlo Galan. C'è chi protesta. Io saluto Giacomo Mangiaracina, che è presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. Non tragga in inganno il nome, in realtà è una ONLUS, l'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, cioè non è un organo istituzionale, Mangiaracina. No? Certo. Ci spiega perché siete contrari? Si va a cancellare una norma importante, una norma di civiltà, una norma che ha fatto bene agli italiani, che ha ridotto del 17% gli infarti acuti dovuti al fumo passivo. No, mi scusi, qua parliamo delle sigarette elettroniche però, non delle sigarette normali. Certamente, però la sigaretta elettronica, noi abbiamo fatto uno studio nel 2010 che dimostrava la riduzione del danno, ma non il danno zero, cioè dire inquina anche la sigaretta elettronica seppure in misura minore. Per cominciare la questione della nicotina, le sigarette elettroniche contengono nicotina, quindi è raro che qualcuno fumi un dispositivo senza nicotina. Però qui in quantità molto minore naturalmente rispetto alle sigarette normali. Che vi è, certamente, quindi riduzione del danno, ma non è danno zero. E quindi vi opporrete. E quindi vi opporrete? Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo organizzato la consulta italiana sul tabagismo, il cui presidente è proprio il professor Girolamo Sirchia, l'ex ministro, e a cui aderiscono le associazioni dei pazienti, in modo particolare le associazioni dei pazienti delle malattie respiratorie, quindi pazienti BPCO e Federasma, quindi sono grandi organizzazioni che hanno quasi un migliaio di membri ciascuno. Insomma, quindi ovviamente quello che noi vogliamo è riproporre la salubrità dell'aria da respirare, che sia la migliore possibile. Quindi che si cambi di nuovo questa norma. Mangiaracina, lo spazio a disposizione è finito, perché qua in questa trasmissione gli spazi sono ristretti. La ringrazio per il suo intervento, magari nei prossimi giorni vedremo anche di ospitare un'opinione diversa dalla sua naturalmente. Una pausa, c'è la viabilità, ci ritroviamo subito dopo e ritorneremo a parlare del tifone nelle Filippine, e lo faremo con l'ambasciatore a Manila. La rabbia dei commercianti, le imprese sono stremate, il 2014 non sarà l'anno della ripresa. Poi parlano di contraffazione, la contraffazione causa alle imprese del commercio insieme all'abusivismo 17 miliardi di euro l'anno di perdite. Sulla crescita replica il ministro dell'economia Saccomanni, dice il 2014 sarà un anno nel quale il PIL salirà. Sono oltre 10.000 le vittime nelle Filippine per il tifone Haiyan, 4 milioni secondo l'UNICEF, i bambini colpiti, 4 morti nel frattempo, decine di dispersi nel sud della Cina. PDL alla resa dei conti, Berlusconi paragona i governativi a Gianfranco Fini, Letta, il desiderio di autodistruzione non giova a nessuno, nemmeno al partito del Cavaliere. Calcio, il campionato si fa sempre più avvincente, la Juventus ad un punto dalla Roma, ma i riflettori si puntano su Salernitana-Nocerina, solo 20 minuti di partita per le minacce degli ultra, 30 tra questi sono stati identificati, è notizia di poco fa. Noi torniamo nelle Filippine adesso, in apertura di questa seconda parte. Io saluto Massimo Roscigno, ambasciatore a Manila. Ambasciatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, io la prima domanda che le devo fare è questa. L'unità di crisi della Farnesina ha riferito che alcuni italiani non riescono a contattare i loro parenti che si trovano là. Lei che cosa sa di questi fatti? Beh, il problema è che alcune zone sono ancora completamente tagliate fuori dai collegamenti sia di telefonia fissa che mobile, per cui anche noi abbiamo delle difficoltà a contattare qualche connazionale che è nelle zone di cui c'è stata detta, di cui sappiamo c'è una presenza, però non possiamo arrivare a contattarli, appunto. Riesce a quantificarmi, ambasciatore, quante persone non si riescono a contattare in questo momento, posto che la cosa non deve necessariamente creare preoccupazione, perché appunto può darsi che sia semplicemente una questione di comunicazioni che non funzionano? Naturalmente sì, noi speriamo che si tratti solo di una, ecco, di un problema di comunicazione, e vogliamo essere ottimisti, perché fino adesso tutti i casi che abbiamo cercato di contattare, che ci erano stati segnalati, voglio dire, un buon numero di casi siamo riusciti a entrare in contatto, o perlomeno a sapere che erano in buone condizioni, perché ripeto, parlare con le persone direttamente è quasi impossibile. In alcuni casi abbiamo provato a contattare alcune persone che ci erano state segnalate o che risultavano essere residenti in certe zone, e non siamo riusciti perché le comunicazioni sono completamente interrotte. Quante persone mancano a, diciamo così, all'appello, ambasciatore? Beh, mi riferisco a quelle che ci sono state segnalate o di cui c'è stato, ci sono state chieste notizie, sono in realtà poche unità. Forse una dozzina, ecco, adesso non so darle il numero preciso, che non ho come gli elenchi, però più o meno sì, su quei numeri lì, quindi poche unità che non riusciamo a contattare e stanno nelle zone colpite. Tra questi, ambasciatore, ci sono anche dei missionari, perché noi sappiamo che ci sono alcuni missionari che si trovano nella zona colpita dal tifone, quella più intensamente colpita dal tifone. Sa se tra queste persone ci sono appunto anche missionari italiani o no? Non sono al corrente di missionari in quella zona particolare, di Leyte, però ecco, io non ho con me gli elenchi delle persone. Non credo che ci siano missionari, penso che i missionari sono concentrati più in altre zone del paese. È possibile che ce ne sia uno o due, però ecco. Allora, ambasciatore, io vorrei sapere a questo punto, a livello più generale, com'è la situazione adesso e che situazione si sta vivendo là nelle Filippine, a Manila e insomma nel resto del paese, da quello che sa lei, che naturalmente guarda anche i media locali, ha una conoscenza più diretta della situazione. Beh, c'è da dire innanzitutto che il totale delle vittime che sono state accertate fino ad ora continua a essere su numeri inferiori a quelli che erano stati annunciati dalle agenzie internazionali di stampa, quindi 10.000 vittime di cui si parlava per il momento non risultano. Le autorità ci danno adesso un toll totale di circa un migliaio, avremo superato un migliaio di vittime, che sono moltissime per carità comunque, ecco. Certo è un numero che è suscettibile di aumentare, perché ci sono zone che ancora non sono state raggiunte. La macchina dei soccorsi è in moto, il governo si sta attivando, i donatori internazionali si stanno attivando anche loro. La buona notizia, relativamente buona notizia, è che alcuni aeroporti che erano chiusi sono stati riaperti, quindi questo può facilitare la logistica. Ambasciatore, quando dice il governo si è attivato, intendeva, immagino, quello delle Filippine o anche il nostro si è già attivato? Il governo filippino è agito naturalmente attraverso le autorità militari, il Ministero dell'Interno e altri organismi. Il nostro governo siamo in contatto continuo con la Farnesina, io ho sottoscritto i miei collaboratori, perché stiamo cercando di vedere di produrre anche noi nuovi aiuti di emergenza nei limiti del possibile. È una decisione che verrà fatta nelle prossime ore, penso. Tenendo presente che l'Italia ha sempre dato degli aiuti di emergenza nelle altre gravi calamità naturali che hanno colpito questo paese, quindi abbiamo una tradizione, abbiamo un'immagine in questo senso, e ecco, mi auguro che possiamo continuarla. Noi solo pochi giorni fa avevamo annunciato, forse una settimana fa, avevamo annunciato un aiuto prima del tifone di circa di mezzo milione di euro, sempre per interventi di emergenza dovuti ad altre calamità che purtroppo questo paese non mancano. Grazie all'ambasciatore Roscigno per essere stato con noi. Le auguro buona giornata e naturalmente buon lavoro in queste ore complicate. Salve. Grazie molte, grazie. Buona giornata. Noi adesso cambiamo decisamente argomento. Saluto il nostro Dario Ricci. Ciao Dario, benvenuto. Benvenuto a te, ben trovato Simone, un saluto a tutti. Allora, noi vogliamo parlare. Tra un attimo verremo a Salernitana Nocerina, il tema del quale si discute, come avete sentito, in queste ore. sono stati identificati almeno 30 degli ultra che avrebbero portato poi coi loro comportamenti a far sì che i giocatori della Nocerina fingessero degli infortuni per far interrompere la partita. Capisco che sembra complicata, però è una vicenda allucinante. E però prima ti voglio portare sul campionato. Allora, qua avete al microfono che vi sta parlando un romanista, dall'altra parte uno juventino, quindi siamo perfetti. Abbiamo già svelato tutti gli altarini, però insomma c'è un punto di distanza a tuo vantaggio, non so ancora per quanto, però sicuramente per domenica prossima sì, perché c'è la pausa per la nazionale. Comunque, ecco, al di là di tutto, Dario, grandissimo campionato, perché insomma nelle prime settimane ci siamo concentrati su questa Roma che sembrava uno schiacciasassi, però stanno andando tutti fortissimo. Eh sì, adesso stanno un po' di selezione, la stanno facendo appunto gli scontri diretti, la Juventus che deve ancora mettere al sicuro la qualificazione alla fase eliminazione diretta in Champions League, ha ritrovato il passo in campionato. C'è questo giocatore stellare che è Pogba, abbiamo visto ieri un gol che strabilia. C'è un Napoli che nelle partite importanti finora forse è mancato un po', perché c'è stata la sconfitta con la Roma e questa con lo scontro diretto, anche una coda un po' polemica da parte di Benitez e Conte, che certo non si trovano simpaticissimi, diciamo così, però ecco, è una squadra che probabilmente funziona meglio il Napoli al momento con le medio piccole piuttosto che con le big. Allora, Dario, veniamo a questa Salernitana-Nocerina che tanto sta facendo discutere. Insomma, la sostanza, mi sembra aver capito, è questa. Gli ultra assediano il luogo dove l'hotel dove si trovano i giocatori della Nocerina. Sì, a Salerno per il derby. Per il derby. E costoro sostanzialmente, diciamo, dicono che non si sono scaldati abbastanza, però c'è una sequela di infortuni piuttosto, sì, perché, sospetta. Diciamo che le intimidazioni ricevute dagli ultra della Nocerina, ultra che il questore aveva impedito di seguire la squadra in trasferta, quindi di entrare allo stadio, queste intimidazioni sono tali che i giocatori della Nocerina, sentendosi insicuri chiaramente, decidono di simulare, appunto, di creare le condizioni perché a norma di regolamento la partita non si possa disputare. Quindi dopo 20 minuti, partita interrotta. Sì. Abbiamo in linea Francesco Ghirelli, che è direttore generale della Lega Pro. Buongiorno. Buongiorno. Però io l'affido nelle mani di Dario Ricci, che è il nostro uomo sportivo. Dario, vai. Beh, direttore, il giorno dopo fa ancora più male quello che si è visto ieri alla Rechi. Quali misure avete deciso nel concreto? Perché la Lega Pro ha deciso di scendere concretamente in campo rispetto a quello che si è visto. Allora, la prima cosa è che una vicenda di questo genere obbliga tutti a riflettere, al di là delle cose che abbiamo fatto, delle attività che abbiamo svolto. Stavamo lavorando su quell'area da un anno e mezzo per evitare che ci fossero queste questioni. Credo che non sia servito purtroppo a nulla e quindi sarà necessario riflettere su che cosa è necessario fare anche in maniera diversa. Le misure ora, prima di tutto, bisogna aspettare un attimo, ma rapidamente, le misure dal punto di vista della giustizia sportiva e della giustizia penale. Noi abbiamo già detto ieri che il danno è rilevantissimo e quindi di conseguenza faremo ogni azione dal punto di vista del risarcimento danni e dal punto di vista civile, di rivalsa di tutti coloro i quali subiranno un procedimento penale, perché il danno è veramente rilevante per il calcio e lo sport. Dopodiché bisogna mettersi in testa di produrre un'attività che interrompa questo modo di far calcio. Noi siamo e confermiamo di essere per gli stadi senza barriere, per i trust, cioè mettere attraverso un azionariato popolare i tifosi all'interno dei consigli di amministrazione per rompere questa incomunicabilità tra che spesso succede tra i club, eccetera, però quella vicenda di ieri è una ferita difficilmente rimarginabile. Ghirelli, brevemente, Malagò dice: sono molto arrabbiato con la Lega Pro perché questo argomento lo conosceva a memoria, anche se sono vittime ostaggi ed è giusto che si costituiscano parte civile. Però dice di essere arrabbiato, dice lo conoscevate a memoria, insomma in qualche modo forse potevate intervenire prima. È un anno e mezzo che stiamo intervenendo, quindi logicamente su una vicenda di questo genere bisogna tutti quanti ragionare, però io... Se ci dicono che cosa dobbiamo fare di più e di meglio, noi lo mettiamo in campo. E quindi come risponde a Malagò? Che bisogna riflettere su che cosa si è fatto, ma dal punto di vista delle cose che sono messe state in campo, l'abbiamo messe in piedi tantissime. Dobbiamo farne di più, siamo pronti. Forse Dario Ricci ha un'ultima domanda breve. Direttore, il sindaco di Nocera ha detto forse c'è stato un eccesso di prevenzione nel impedire a questi ultra di entrare allo stadio. Beh, io faccio fatica a immaginare che magari in curva e sugli spalti si sarebbero comportati come dei gentil signori. Ma che le devo dire? Adesso tutti quanti esercitano un meccanismo per scaricare responsabilità, noi non siamo in questo modo, quindi al sindaco di Nocera vorrei chiedere che cosa ha fatto nel corso di questi mesi mentre noi stavamo facendo un lavoro intenso per parlare con i tifosi, le società, i club eccetera per arrivare agli stati a far giocare la partita aperto. Noi ci abbiamo messo la faccia, spero che lui ce l'abbia messa come noi nel corso di queste settimane. Grazie Ghirelli, grazie Dario Ricci, pausa, ci ritroviamo tra poco e come sempre ci sarà l'inchiesta di Daniele Biacchessi. I commercianti, imprese stremate, il 2014 non sarà l'anno della ripresa, il 2014 sarà di crescita, replica Saccomanni. Oltre 10.000 vittime nelle Filippine per il tifone Haiyan, 4 milioni secondo l'UNICEF, i bambini colpiti, una dozzina gli italiani con i quali si sono persi i contatti, riferisce l'ambasciatore ad effetto giorno. PDL alla resa dei conti, Berlusconi paragona i governativi affini, Letta il desiderio di autodistruzione non giova a nessuno. I riflettori puntati su Salernitana Nocerina, solo 20 minuti di partita per le minacce degli ultra, 20 DASPO, fa sapere la questura di Salerno. E ora è il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi, dedicata questo lunedì a quello che sta succedendo intorno all'ATAC. L'inchiesta sui biglietti falsi dell'ATAC, il sistema del trasporto pubblico di Roma, svela meccanismi poco chiari e poco puliti e mette in luce uno dei sistemi possibili per costruire fondi neri per finanziare la politica. Una delle ultime piste investigative porta dritta alla ERG Limited in Australia. Dunque la ERG è la prima società alla quale nel 1998 viene esternalizzato il servizio di biglietteria dell'ATAC. Sono gli anni del sindaco Francesco Rutelli. Presidente di ATAC era Mario Di Carlo, che due anni più tardi, 2002, diventerà assessore alla mobilità della giunta di Walter Veltroni. Alla ERG viene affidata la fornitura per la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di un sistema di bigliettazione elettronica. All'azienda viene riconosciuto l'8% degli incassi complessivi. Al comando dell'azienda in Italia c'è Maurizio Milan, manager della società australiana, che negli anni successivi continuerà ad interagire con ATAC fino a diventarne dipendente. Milan è uscito di scena dopo lo scandalo dei biglietti falsi con una buona uscita di circa 300.000 euro e Mario Di Carlo, l'allora presidente di ATAC, è deceduto 3 anni fa. La seconda pista porta invece ai distributori. La società che ha vinto la gara per la distribuzione agli esercenti dei titoli di viaggio ATAC è la Servizi in Rete SRL, legata all'Associazione Nazionale Tabaccai. Al momento il coinvolgimento nella vicenda è escluso, ma diversi manager in ATAC si chiedono oggi come sia possibile avere a disposizione una rete capillare di distribuzione senza un soggetto terzo ben inserito e radicato sul territorio. Intanto il sindaco di Roma, Ignazio Marino, stamattina ospite a Radio 24, intende andare fino in fondo. Io ho deciso di cambiare metodo, invece di nominare i vertici della società sulla base delle segnalazioni dei partiti o delle conoscenze personali, decisi di iniziare proprio con l'ATAC, raccolsi molti curricula di persone che avessero competenza in gestione di grandi aziende e abbiamo scelto una persona che non era legata né al territorio di Roma né a partiti politici, si chiama Danilo Broggi, che adesso è da luglio l'amministratore delegato dell'azienda. E devo dire che per questo metodo, chiamiamolo bizzarro, cioè di scegliere le persone sulla base del loro merito e delle loro capacità, sì, siamo stati abbastanza attaccati. Pier Ignazio Marino, l'inchiesta che coinvolge l'ATAC fa emergere dunque un coacervo di interessi poco chiari, poco puliti, e quindi uno scandalo vergognoso che mina la dignità della città e dei suoi cittadini. Al di là dell'accertamento della verità e dei reati penali e di quelli civili, non possiamo naturalmente dagli torto. Così l'inchiesta di Daniele Biacchessi. Allora, siamo andati un po' lunghi, non abbiamo tempo per il nostro consueto appuntamento con chi sta facendo, insieme a Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, la staffetta del digiuno per il cambiamento della legge elettorale. Ci torneremo naturalmente domani. Vi ricordo solo che Giachetti, che è in sciopero della fame appunto per la riforma della legge elettorale, è in sciopero della fame da 36 giorni e, aggiornamento di poco fa, ha perso 9 kg di abilità. A tra un attimo. Indiscrezioni su un nuovo piano all'Italia arrivano adesso, presentato dall'amministratore delegato Gabriele Del Torchio. Prevederebbe 250 milioni di risparmi e dovrebbe essere presentato al consiglio d'amministrazione di mercoledì, è quanto riferiscono le agenzie. La rabbia dei commercianti, imprese stremate, il 2014 non sarà l'anno della ripresa, no, sarà di crescita, replica il ministro Saccomanni. Oltre 10.000 le vittime nelle Filippine per il tifone Haiyan, 4 milioni secondo l'UNICEF i bambini colpiti. PDL alla resa dei conti, Letta, il desiderio di autodistruzione non giova a nessuno, nemmeno al partito del Cavaliere. E ora è il momento di Mario Platero con America 24. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta America, America, America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24, buongiorno Simone da New York, Mario Platero, borse aperte e vedremo cosa farà Twitter, ma banche e scuole chiuse perché oggi, lunedì 11 novembre, Veterans Day, è la giornata dei veterani di tutte le guerre in America, una giornata scelta perché l'armistizio fra la Germania e gli Stati Uniti fu firmato all'undicesima ora dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese del 1918. Un anno dopo, l'11 novembre del 19, il presidente Woodrow Wilson proclamò la festa nazionale. Allora, oggi vi parlerò dei tentativi di evitarle, queste guerre calde o fredde che siano, per minimizzare il numero dei veterani, e vi parlerò proprio di un veterano celebre, raccontandovi di notizie di questo fine settimana. Partiamo con Kerry. We are absolutely determined that this would be a good deal or there'll be no deal. Now that's why it's hard. That's why we didn't close the deal here in the last couple of days. Dopo un nulla di fatto ieri a Ginevra nel negoziato per bloccare lo sviluppo di atomiche in Iran, il segretario di Stato John Kerry dice: siamo più vicini a un accordo oggi che partiamo di quanto non fossimo all'arrivo. Queste le sue dichiarazioni. Vero? Beh, questa mattina in effetti l'Iran ha concesso a sorpresa agli ispettori dell'ONU, attenzione però perché un negoziato parallelo a quello di Ginevra, ha concesso di visitare il reattore ad acqua pesante per la produzione di plutonio in costruzione ad Arak. Un primo passo forse, ma i ministri degli esteri del 5+1 chiedevano l'interruzione dei lavori ad Arak, cosa che l'Iran respinge, come respinge un linguaggio che chiede di rinunciare al arricchimento dell'uranio. Insomma, alla fine a Ginevra si è arrivati vicini, ma non per chiudere, appuntamento fra 10 giorni a livello più basso, ma se non si sono messi d'accordo i ministri, come si metteranno d'accordo funzionari di rango inferiore? Scrivetemi su Twitter, @MarioPratero, il tema è caldo, lo hanno fatto in molti quando esprimevo prudenza. L'Iran ribalta troppe volte il tavolo, seguo questo negoziato da anni, ero a Ginevra già nel marzo del 2009, un negoziato simile, si chiuse con l'apertura, gli ispettori di Al-Baradei, parlai di ottimismo, successo, ma scrissi anche: resta il sospetto, il timore che l'Iran all'ultimo momento si tiri indietro o cambi le carte in tavola. Il 20 novembre 2009 sono a Seul, ultima tappa di un difficile debutto asiatico del presidente americano. L'Iran intanto ha chiuso le porte agli ispettori, siamo ospiti del presidente Lee Myung-bak, vediamo Obama che ammette, dopo le resistenze iraniane a rispettare gli impegni di Ginevra, il 5+1 sta già considerando ipotesi di nuove sanzioni contro Teheran, un film già visto, insomma, che aumenta le incertezze. You know, my concern here is that we seem to want the deal almost more than the Iranians. And you can't want the deal more than the Iranians, especially when the Iranians are on the ropes. A parte Netanyahu che ha fatto dichiarazioni di fuoco, ieri il senatore Menendez dice alla ABC, lo abbiamo sentito, ora dobbiamo stringere sulle sanzioni, hanno funzionato, non dobbiamo abbassare la guardia, sarebbe un errore. Menendez è il successore di John Kerry, un suo amico, ma non per questo meno preoccupato dalla linea morbida di Barack Obama. Preoccupatissimo in Israele anche il primo ministro Netanyahu, dice dovevano smantellare gli impianti in cambio dell'eliminazione delle sanzioni, non sospendere i lavori. L'impostazione di questo negoziato, dice Netanyahu, è stata sbagliata fin dall'inizio, ora vediamo quali sono i risultati. Devo dire, è difficile dare torto alle preoccupazioni di Netanyahu o dei sauditi, un alleato che si è lamentato dell'impostazione americana, preoccupati da quel che succede a Teheran. Trust but verify, diceva Ronald Reagan, fidati ma verifica. My concern has always been not that we shouldn't do intelligence gathering to prevent terrorism, but rather are we setting up a systems of checks and balances. So on this telephone program. Guerra fredda anche fra alleati per spionaggi incrociati, a giorni avremo indicazioni per le riforme americane. Intanto una curiosità, abbiamo appreso che il presidente americano viaggia sempre all'estero con una tenda di nylon speciale. La tenda viene piazzata nella camera d'albergo dove il presidente dorme, alle pareti flessibili tappezzate di congegni di disturbo elettronico che emettono rumori, confondono segnali in arrivo e soprattutto proteggono Obama da qualunque rischio di ascolto indiscreto all'interno dell'albergo o al di fuori del palazzo con sofisticati meccanismi di ascolto, tecnologia avanzatissima, non come la tenda di Gheddafi che il colonnello piazzava in un parco con l'aiuto delle sue amazzoni al seguito. Il Pentagono ha distribuito una foto di quando Obama usò questa tenda a Rio de Janeiro, parlava con gli alleati per coordinare l'attacco alla Libia. È un caso che sia stata distribuita proprio la foto di Rio? Ma forse no, mi sembra un rimbrotto a Dilma Rousseff, presidente brasiliano, che scandalizzata per ascolti indiscreti americani ha cancellato una visita di Stato a Washington. Come dire, tutto il mondo è paese, ma noi, dicono alla Casa Bianca, con la nostra tenda siamo forse un passo in avanti. Infine un veterano, è stato nelle cronache di questi giorni, anche se è morto un anno fa, Gore Vidal, l'ultimo di una generazione di scrittori che hanno combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, come Salinger, Kurt Vonnegut, Norman Mailer, Joseph Heller. Nel 1948 Gore Vidal ha scritto un romanzo in cui descriveva apertamente l'omosessualità, fece scandalo, e sicuramente un personaggio, fratellastro di Jackie Kennedy, la portò a Capri, aveva una villa meravigliosa a Ravello, la rondinaia, litigava un po' con tutti e nelle cronache per una questione di eredità. La sorellastra gli ha fatto causa, dice che non ha lasciato una lira a suo figlio, nipote dello scrittore, un patrimonio di 37 milioni di dollari che Vidal ha lasciato a Harvard, la grande università americana. Dicono che fosse svanito di testa, ma Vidal, lo sappiamo, era caustico, perfido se necessario, soprattutto un veterano, perché veterani lo sono tutti, anche lui descritto come l'Oscar Wilde del XXI secolo. Vi lascio con la canzone del giorno, la dedichiamo ai veterani, l'inno dei Marines. From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli, we fight our country's battles in the air, on land and sea. First to fight for right and freedom and to keep our honor clean. We are proud to claim the che è tutto, Simone ti restituisco la linea, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani, goodbye and get going. Ed è tutto per Effetto Giorno, noi ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio. Un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, Laura Faggini in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto Giorno torna domani alle 13.